buonasera a tutti. Altofest è il 7 giugno a Napoli, Rione Sanità. Siamo nella casa di Giuseppe Giovinetti e Cinzia Baldassarre e qui con noi ci sono gli artisti che stanno in questa casa, che sono Manuel Pigneiro, Valeria Caboi e la piccola Camilla. E io sono Pina Lanna. Sento di chiedere a Valeria: qual è stata la tua impressione la prima volta entrando in questo spazio, in questa casa, anche in relazione un po' alla performance che intendi fare? Ok, è sempre una sfida dover rivoluzionare e adattare la propria performance a uno spazio così già pieno di vita, di vivenza, di esperienza, di oggetti incredibili, tutti diversi fra loro, tantissimi pezzi d'arte. Questa è una casa speciale, non è una casa qualsiasi, perché è la casa di artigiani che funge anche da estensione del negozio e della loro officina come artigiani, e quindi traspira l'arte traspira di queste persone anche insieme alla vita di queste persone. Cioè, si sente che è una casa di persone, che di gente che lavora e che ha una passione per l'arte, si sente. E come pensi di poterti insinuare in questa vita, in questa casa lavoro, in questa casa vita, non so? Ma credo che stia succedendo abbastanza, non voglio essere troppo romantica a dire che succede naturalmente, che succede automaticamente, però in realtà vivere già solo il fatto di doversi inserire, nel nostro caso con tutta la famiglia, con la bambina. Ecco, questo è bello, sì, anche con la bambina. In una casa che ha già una vita, e dover incontrare una sinergia, incrociare i propri orari, le vite, il nostro lavoro con loro. Già solo questo crea dei meccanismi che fanno andare avanti la creazione di per sé. Poi siamo al secondo giorno, vediamo. Infatti, sì, magari può sembrare presto, ma ci piace cogliere dall'inizio proprio la prima impressione. E un'altra tua impressione. Secondo te chi abita questa casa? Ma in realtà io so, perché lo so già e l'ho anche vissuto, questa non è in realtà la prima volta che io entro in questa casa, perché sono entrata in questa casa come spettatrice di altri artisti, che sono già stata artista ad Altofest altre due volte, e quindi ho visto altre performance dentro questa casa, però in realtà non mi ero mai chiesta, non ero mai andata nel profondo sul fatto che, non avevo neanche pensato che fosse una casa in realtà, l'ho vista come spazio di performance senza farmi troppe domande, quindi adesso forse potrei capirlo solo vivendo, in un certo senso. C'è qualcosa che perché mi sono trovata in Altofest, perché non solo c'è la curiosità ovviamente del conoscere l'artista, gli artisti, e come possono immaginare uno spazio, e come possono immaginare come stare in uno spazio, che solitamente quello vissuto della mia casa, riconosco solo il mio vissuto, quindi mi incuriosisce molto sapere come l'altro, un altro proprio diverso da me, possa viverlo e che percezione possa avere. Questo è quello che mi piace. E quello che poi mi piace ancora è quando appunto ho usato la frase non quella completa di Dante, era come sa di sale lo pane altrui, e come è il salire e scendere le altrui scale. Il salire e scendere le altrui scale mi piace, un altro aspetto di Altofest che mi piace, perché è un modo poi che sono io che cerco di mettermi, di vedere e di entrare in uno spazio e vedere gli altri come lo vivono e che cosa mi rimanda quello spazio, qual è la suggestione che mi rimanda. Quindi è doppio il lavoro fra l'artista che viene a casa e quindi conoscere, cercare di capire come lui se lo vive il mio spazio, e a mia volta vado dagli altri per vedere io come mi vivo soprattutto quello spazio, e poi anche l'artista che ci sarà in quella casa. Quindi alimenta questo, il salire e scendere altre scale alimenta un po' la mia curiosità, diciamo, è un modo anche sottile di intrecciare relazioni. Poi magari alla fine non ci si fa niente, qualche relazione resta, però altre vale il momento per me quello di percepire quello che mi dice l'altro, ecco. Sì, in realtà mentre parlavi, mi viene in mente che il teatro e anche la danza e tutta l'arte performativa è in principio sempre una condivisione di spazio tra l'artista e lo spettatore, no? E credo che Altofest salga un gradino più in alto, o forse 100 più in alto da questo punto di vista. È un ulteriore livello di questa condivisione, perché non solo c'è un artista che lavora, normalmente molte volte l'artista lavora in uno spazio quasi neutro, ovviamente non è mai neutro, però la black box, il teatro, la sala la sala prove, è uno spazio che deve essere normalmente il più possibile neutro, in modo che l'artista entri, faccia le sue prove e poi dopo apre questo spazio allo spettatore. Nel caso di Altofest non è così, l'artista entra già in uno spazio che non è assolutamente neutro e sì, per questo anche ha molto senso per me la parola dono, il donatore di spazio, perché l'artista riceve il dono di uno spazio che non è neutro, riceve già tanto, tante informazioni, tanto. È come se quello spazio stesse già vivendo l'opera prima di entrarci e bisogna solo attraversarlo, viverlo. È un aiuto, è una forza, secondo me. E poi sì, certo che come spettatrice l'ho vissuto anche dall'altro punto di vista, cioè entrare e vivere solo quel momento, però si sente che c'è una vivenza diversa rispetto a quando vai a teatro a vedere un pezzo che è stato fatto solo su un palco e per il palco.